tutti quanti finti. Com'è bello questo mondo, è un tesoro in uno scrigno, questa piazza, casa e luci, io sto qui, mi meraviglio. Com'è bello questo mondo, anche se spesso un inferno, c'è la luce in alto e dice, vivi, canta e sii felice. Com'è bello questo mondo, anche se spesso un inferno, c'è la luce in alto e dice, vivi, canta e sii felice. Com'è bello questo mondo, quasi quasi ci ritorno, con un corpo tutto nuovo vado in giro e faccio finta. E che cerco buon amore, io ti trovo e poi ti perdo, ma non fa farmi morire, col dolore mi diverto. Com'è bello questo mondo, faccio la ricreazione, poi c'è anche religione, guardo l'ave sopra un fiore. Le ragazze sono belle, con sorrisi e cellulare, con lo zaino sulle spalle, dentro il cuore, hanno il mare, dentro il mare, io ci affondo dentro il mondo, mi confondo, yeah. E ragazze non sono scemi, se c'è vita da ballare, perché i colpi che stanno fermi sono quelli nelle mare. Com'è bello questo mondo, che siamo tutti dei fantasmi che di notte fanno bu, che di notte fanno bu, bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu, yeah. Com'è bello questo mondo, dai amica si ritorna e andremo a far l'amore come quella prima volta, sembrerà la prima volta, yeah. Com'è bello questo mondo, anche se spesso diventa.